io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato il becchino da parenzo, eh? La Zanzara. Beppe Grillo, prima se la prende con Renzi, come sai Parenzo, se l'è presa nel weekend con Renzi dicendo che non è mai al comune di Firenze, che ha il bilancio che va male, eccetera eccetera. Naturalmente a turno, questa è tutta una strategia mediatica, se la prende con quelli che considera i suoi avversari politici per allargare il suo consenso. Dopo mette nella blacklist dopo la Zanzara e praticamente tutti i talk show nazionali. Tutti i talk show nazionali, mette nella blacklist anche Agorà. Anche Agorà, Agorà di Vianello. Fossi quale... Vianello, io direi, come ti ricordi quel cartone animato che diceva medaglia, medaglia, medaglia? Medaglia, assolutamente. Dovrebbe mettersi una medaglia attaccata sul petto. Non ti ricordi quel cane lì dei cartoni animati che diceva sempre medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Questo perché? Perché fanno un servizio, un bel servizio su il Meetup, cercano di entrare con le telecamere durante una riunione di questi comitati del Lazio, poi a un certo punto intervistano, i quali li mandano fuori, secondo me anche giustamente, non è che se qualcuno vuole entrare a casa mia lo devo autorizzare per forza, anche se ha la telecamera della Rai, sono circoli anche privati, se uno vuole stare da solo può stare anche da solo, però una cosa sono i circoli interni, diciamo i circoli, i famosi meetup, una cosa sono i banchetti, se uno fa un banchetto pubblico là, e uno arriva ad intervistarti, puoi dire di no, ma una volta che sei intervistato, beh, è fatta praticamente, no? Ma non c'è dubbio. Senti. Lei non si è offesa da donna che fa parte del movimento attivamente, che abbia chiamato il punto G, la televisione, che abbia un quello po'... Quello è un pochino di cattivo gusto, però fa parte del personaggio. Lei dice non c'è un vertice. No, a parte Grillo non c'è. Lui si è definito il capo politico. Si è definito adesso il capo politico, noi lo consideriamo ancora il portavoce del movimento. Vabbè, insomma, interviste assolutamente normali, non è che dicessero delle cose particolari. Però arriva a un certo punto un tizio e dice: beh, queste cose non dovete mandarle in onda, I due attivisti ci parlano davanti alle telecamere, eppure noi non possiamo mostrarvi i loro volti, perché mentre stiamo per andare via, arriva il responsabile del municipio. È un luogo pubblico. Sì, sì, ma non è che io sono. Loro sono loro di parte. Ma loro poi stanno a fare il loro lavoro, io sono con loro due. Ma no. Dopo poche ore riceviamo queste due mail. Non siamo più autorizzati a mandare in onda le interviste. Comincia la festa, ma la festa è nostra. Vabbè, insomma, tagliamo corto. Le interviste sono andate in onda, tra l'altro, con uno scrupolo forse eccessivo, cioè quella di coprire i volti e di non mandare, avete visto, avete sentito anche la voce un po' distorta, precauzioni direi eccessive. No, ha fatto bene la signora Cecilia Carpio. Ma adesso lascia perdere Cecilia Carpio, eccetera. Hanno fatto malissimo, fatto bene, sono interviste pubbliche fatte per la strada, e quelli dei 5 Stelle, se vanno, poi possono pure rifiutare di farsi di intervistare, è legittimo, però una volta che uno si fa intervistare non esageriamo. No, d'accordo, però insomma, voglio dire, il servizio pubblico ha delle regole, quindi è giusto che sia così. Io non mi sento di criticare questo, mi sento di criticare questi cialtroni. Questa banda di cialtroni. Ma quale cialtroni? Ma perché banda di cialtroni? Comunque, Salsi, la consigliera comunale Salsi, io dico Salsi chi? Nel senso che senza Grillo non sarebbe nessuno. Salsi chi? Parla di scientologi. Sentite, lo dici tu, io non lo dico. Ron Hubbard. Cioè. Parla di scientologi. Si sente molto male, però è significativo. Io ho detto questo movimento perché condividevo lo spirito e le idee. Ma non vuole che questo movimento si trasformi in scientologi. E non vuole. Avete sentito? Non voglio che questo movimento si trasformi in Scientology. Ma ha ragione. Scientology. Alzate la testa, ribellatevi al sovrano. Non sarebbero nulla senza Grillo, nulla, niente, zero, polvere. Ma sono delle polvere, autonome che polvere, devono polvere. Ma che polvere? Una delle frasi del giorno, poi corretta dall'ANSA stessa, l'agenzia di stampa, è di Bersani, che a Torino a un certo punto avrebbe detto: se vinco, se divento premier, offrirò a Renzi di fare ministro. In realtà non ha detto così, sentiamo. Lei non pensa che possa far parte poi della sua squadra di governo? Chiariamo un punto, le primarie sono per scegliere il candidato dei progressisti, la guida del paese. Non servono a far bilance, bilancini di nessun genere. Dopodiché, detto questo, non ho certo delle remore, come dire, ho dei pregiudizi a immaginare che chi vota Renzi, Renzi stesso, altri, eccetera, nel futuro possa essere tutti quanti utili a questo paese. Ecco, quando... Beh, devo dire però, risentendo, l'ha detto e non l'ha detto. Cioè, ha detto anche Renzi può essere utile, non ho nessun pregiudizio, dunque... poi c'è stato uno scrupolo eccessivo nella correzione, cioè, non ha detto propongo a Renzi di fare ministro, però ha detto anche non lo escludo. Cioè, non l'ha escluso, certo. Non l'ha escluso, che significa sostanzialmente che gli offrirebbe di fare il ministro, perché no? De Benedetti, una delle polemiche del giorno. Carlo De Benedetti, intervistato da Fazio sulla Rai, sì. polemizza di nuovo sulla vicenda Mondadori. Sentite, se la mia è la rapina del millennio, allora no, Marchione è un'altra cosa gravissima che ha detto, secondo me. Appunto, pensavo facessi. Se la mia è la rapina del millennio, allora lui è il corruttore del millennio. Recentemente Berlusconi ha definito la sentenza sul lodo Mondadori, che lo ha condannato a risarcire al suo gruppo un ingente capitale, l'ha definita la rapina del millennio. Ecco, lei come risponde? Ma io non ho risposto perché è una tale stupidaggine che non vale la pena di rispondere pubblicamente, ma visto che lei me lo chiede, direi che la sua è stata la corruzione del millennio. E c'è stata anche la risposta di Marina Berlusconi: non abbiamo mai corrotto nessuno, si taccia De Benedetti. Però abbiamo già un ospite, ma voglio farvi ascoltare questa frase incredibile su Marchione, secondo però me. Però diciamo anche una cosa in aspetta, più. Aspetta, lascia perdere una cosa, ma ci abbiamo tutto il tempo possibile, perché mi devi rompere le scatole alle 18:42? Questo... Aspetta. Sì. C'è la frase su Marchione di De Benedetti. Sì. Perché è molto grave, secondo me, questo paragone, peraltro sbagliato anche dal punto di vista storico, cioè quello della rappresaglia, cioè sì. Marchione fa come i nazisti, anzi poteva fare come i nazisti, sostanzialmente dice. Sui 19 operai specificatamente la ritengo che sia andata bene, perché poteva anche fare uno ogni 10 come facevano i tedeschi, ecco. Quindi tutto sommato uno ogni uno, ecco, ma la trovo una cosa assolutamente inaccettabile. Pensa se l'avesse detto qualcuno di un'altra area, diciamo, culturale, no? Cioè, no, questa però cosa... l'ha detta sotto forma di metafora, non come fosse. Ah, adesso stai lì a specificare, sì, a puntualizzare. Ho capito. Spiego, perché ieri ho visto un tweet di Pigi Battista che ho condiviso, non avendo sentito l'altro. Ma non me ne frega niente dei Pigi, dei no, tweet. No, ieri Pigi ha detto una frase... Ma chi è? Ma chi lo conosce? La gente che sta in macchina non sa chi stai parlando. No, la stai gente parlando che sta in macchina, noi abbiamo anche un ruolo educativo. Ma qual è il ruolo educativo? Ce l'hai tu? Aspetta un attimo. Luigi Battista è un grande oddio mia, mamma mia. Abbiamo il coordinatore della campagna delle primarie di Renzi, Roberto Reggi. Buonasera a voi. Come sta, Reggi? Benone, grazie. Bravo. Allora, ha tirato un sospiro di sollievo. Si è preoccupato per questa cosa di Renzi ministro con Bersani premier? È un incubo questa prospettiva o no? No, ma lui probabilmente gli hanno ricordato quello che Renzi dice da settimane ormai, che lui... Cioè? In caso di sconfitta non accetterà premi di consolazione, continuerà a fare il sindaco come sta facendo, anzi... Ma non gliel'hanno ricordato, ha detto il contrario, ha detto che potrebbe anche offrirglielo questo posto. Sì, ma sa che non lo accetterà, perché Matteo Renzi non vuole un posto da ministro, lui sta cercando di cambiare il paese in meglio, sta cercando di diventare premier. Piuttosto sarebbe bello sapere cosa farà Bersani in caso di sconfitta, non l'ha ancora detto, mentre Matteo Renzi tutti i giorni dice che in caso di sconfitta sua si metterà il giorno dopo, anzi un minuto dopo, a sostegno del segretario per farlo vincere le elezioni, quelle vere. Ah, cioè Bersani ci dovrebbe dire, secondo lei, che cosa farebbe in caso di sconfitta? Ce lo aspettiamo, visto che nello stesso suo partito dovrebbe dire altrettanto, no? Potrebbe anche, secondo lei, si dovrebbe ritirare dalla politica, perché ha fatto diversi mandati già, uno sconfitto, ha detto già che non vuole più fare il segretario. Qual è la sua, diciamo, se dovesse perdere le primarie, quale sarebbe la, come dire, la fine naturale di Bersani? Bersani è una persona molto utile, secondo me, per la politica italiana, anche in caso di sconfitta, qualora fosse sconfitto alle primarie, sarebbe utile comunque, no? Quindi non è che... Che cosa gli fate fare se perde? Potrei dire, possiamo fargli fare il ministro a lui, se lo accetta potremmo rilanciarlo in questo modo. Di sicuro, cioè, ma non andrebbe rottamato anche lui se dovesse perdere, perché ha fatto diverse legislature, tre legislature. Sicuramente ha avuto dei ruoli importanti, non ne ha mai completato uno, nel senso che gli hanno sempre dato 2 anni di tempo e poi l'ha mandato a casa. E questo bisognerebbe fargliene fare uno intero, ecco, visto che non si è comportato male come ministro, anzi tutt'altro, è stato forse uno dei ministri migliori che abbiamo avuto. Cioè, dunque, è stato un buon ministro, se vince Renzi gli facciamo fare ministro, potrebbe provare a fare ministro bene, no? Potremmo fare così, secondo me lo farebbe molto bene. Scusi Reggi, ma ho impressione che voi considerate, per carità, adesso lo dico, una mia impressione, la partita un po' persa, o no? No, al contrario, anzi devo dire che l'entusiasmo che c'è anche oggi in Sicilia è stato in questo fine settimana straordinario. Tutte le volte che facciamo una tappa ne abbiamo fatto. Cioè, ma 108. Una vittoria per voi, a parte la vincere, però se dovesse andare male, urne vuote. Quale sarebbe la cosa? Quale sarebbe la soglia di una vittoria comunque? Quale percentuale? Pensiamo già di aver vinto. No, d'accordo, che... quello lei lo deve dire per forza. Però io dico una cosa: se voi mettiamo che perdete, no? Quale sarebbe una soglia per dire, insomma, però con questo risultato è una sconfitta onorevole? Noi sicuramente con questi risultati che ci danno i sondaggi, per noi è una stravittoria. Cioè? Perché noi siamo a un'incollatura da Bersani in questo momento, cioè, sui votanti certi, e così incerti siamo davanti a lui. Però lasciamo perdere, io sto dicendo, qual è la percentuale che... ma com'è che si fa dire una percentuale? Ma i numeri che abbiamo sono molto alti, no? Quindi noi pensiamo già di aver avuto un risultato straordinario, con i dati che ci danno i sondaggi oggi, per noi è già una cosa straordinaria, no? Comunque non è una bella idea l'ipotesi di fare il ministro, anche magari un ministero importante in un governo Bersani, non è una bella idea comunque? No, perché noi abbiamo in mente di cambiarla questa politica. Ma perché è una vecchia idea, allora questa cosa qui è una vecchia idea consociativa, una brutta idea quella di Bersani? No, il tema è che Bersani secondo noi non è... in grado di coinvolgere come Matteo tutti i cittadini, come sta facendo lui. Noi siamo convinti che se vince Matteo noi vinciamo col 40% come PD. Se vince Bersani si afferma questo partito che al massimo fa il 25-28%, no? E a questo punto ha bisogno di un aiuto da parte di altri partiti che lo mette in grande difficoltà per poi fare il governo del paese. Un vespone, una zanzara, svolazzando, fanno a gara per... Siamo qui 18:49 800 24 00 24 con il coordinatore della campagna delle primarie di Renzi. Oggi Bersani, Parenzo, non so se hai letto, ha detto, anzi no, Vendola ha detto, Bersani deve scegliere o noi. Tra me o Casini. Tra me o Casini. Voi se vincete, caro Reggi, con Vendola che ce fate? Se la pensate proprio all'opposto su quasi tutto, praticamente, il 90%, che ce fate con questo Vendola? Lo stavo dicendo prima, se vince Matteo Renzi porta il PD al 40%. Cioè rende inutile Vendola. Molto meno significative le alleanze con Vendola e con altri. Ma lei un'ipotesi di listone dove c'è Vendola dentro, lo accetterebbe? Cioè Vendola nelle liste? Ma no, io credo che questi accordi preventivi non interessano i cittadini, ma ai cittadini interessano i progetti per risolvere i problemi. Vabbè. Una volta che si... Con Vendola come fate se avete progetti diversi? Uno pensa peste e corna di Monti, per esempio, voi no. È chiaro che se vinciamo noi, Vendola si adatta, non è che può venire a dire non facciamo l'agenda Monti. Se vince il programma di Matteo Renzi, che ha l'agenda di Monti, si fa l'agenda di Monti. Senta, ma Bersani più Vendola è un po' il vecchio Partito Comunista, diciamo. Assolutamente, ma infatti Bersani ha spostato verso sinistra il Partito Democratico, il motivo per cui Matteo è in grado invece di allargare e ritornare all'origine di quello che era il Partito Democratico all'inizio, no? Senta, ma il PDL non rischia di avere delle regole per le primarie più aperte delle vostre? Ah sì, sì, rischia, infatti noi le abbiamo contrastate in tutti i modi queste regole, che tra l'altro queste regole sono diverse da quelle che si portano avanti in Lombardia e nel Lazio, che sono quelle di prima, no? Lo stesso PD che è orgoglioso di avere le regole aperte nel Lazio e quanti nella Lombardia, voti, quanti... è lo stesso che ha messo gli ostacoli. Lui di... oggi Bersani ha detto che andranno a votare probabilmente 2-3 milioni. È quello che si augura lui, perché così lui sa di vincere, invece noi pensiamo di portarne 4 milioni e vinciamo noi. Ma ho capito, ma queste regole qui... Queste regole qui, lei ha già detto una volta che sono fatte un po' per fregare Matteo, sì. Quanti voti vi tolgono queste regole qua? No, però le abbiamo migliorate, con la ricorsa all'authority abbiamo migliorato ma molto. Che? Ma che? Ma non è migliorato nulla? Certo che sono migliorate, non c'è la pubblicazione dei vabbè, ma quello... No, questo è determinante, perché i dati sensibili sono assolutamente garantiti, quindi chiunque, il voto indipendente è assolutamente garantito, cosa che non... Senta, ma qual è l'ipotesi lontanissima per la quale Renzi potrebbe lasciare il Partito Democratico? No, perché non lo deve lasciare il Partito Democratico. Noi siamo... Ma c'è un'ipotesi per cui potrebbe nel futuro lasciarlo? Non abbiamo un'ipotesi di lasciare il Partito Democratico. C'è un piano B. Fuori, ma e chi è che ti vuole mandare fuori? L'abbiamo fondato noi il Partito Democratico insieme agli altri. Il Partito Democratico si è spostato troppo a sinistra, sì, e lo capiscono tutti, ed ha ovviamente bisogno di essere raddrizzato. Noi pensiamo di poter contribuire ad allargare la platea di votanti del Partito Democratico in maniera significativa, sì, con una proposta che... Senta, ma tra De Benedetti, cultura liberale cattolica. Tra De Benedetti e Mondadori, lei con chi sta, Reggi? Guardi, De Benedetti fa delle... Tra De Benedetti e Berlusconi. No, ma io sto con De Benedetti, io sto sempre contro Berlusconi, perché ne ha fatte tante, ne ha combinate tante, che non riesco mai a essere con Berlusconi. Dopo quello che ha combinato in questi anni, sì, davvero, per me è il diavolo, politicamente. Il diavolo addirittura? Politicamente sì, dai, ci ha fatto dei danni atomici. Beh, il diavolo, lei è più anti-berlusconiano di Renzi, perché Renzi non ha mai detto che è il diavolo. Io l'ho sperimentato, ho fatto 10 anni il sindaco e so come ne ha fatte di tutti i colori, da sindaco. Il diavolo addirittura, il diavolo. Il diavolo dal punto... Voi riscoprite... Beh, certo, è chiaro. No. Mica dal punto di vista, mica è padre Amort lei. No, esatto. Non è mica padre Amort, scusi. No. Parenzo, che vuoi? Addirittura il diavolo, scusa, è una cosa incredibile, mi pare. Beh sì, mi sembra che lei adesso sta cercando un po' di recuperare, no? No, a me sciocca il fatto che non... Ma ne non ha immagini... combinate, tante ne ha combinate. Ok, pure De Benedetti le dice peste e corna su Renzi, Vabbè, non è che nessuno è perfetto, voglio dire. Però scusi un attimo, tra l'altro ultimamente Renzi ha detto che la stampa e l'informazione è contro di lui, non ha spazio, ma di che parla? Ma dice, nel senso che non si riesce a mettere in evidenza quelle che sono le sue proposte politiche. Ma non è vero, ma non è vero, su progetti, Reggi, ma i progetti non escono, ma direi che è una... Ma è perché una... quelli di Bersani escono secondo lei? No, però per lui si danno per scontati, no? Perché sembra che lui abbia chissà quale idea, in realtà andando a vedere dice vive la mamma e poco più. Comunque si ricorda che la Moretti, la portavoce di Bersani, sì? Sì. Che ha detto che assomiglia a Cary Grant, no? Che è più bello di Renzi, sì, che Bersani assomigliava da giovane, assomigliava a Cary Grant. Che la Moretti è rimasta ammaliata. È rimasta ammaliata, un po' innamorata, no? Di Bersani. Un po' innamorata di Bersani. Parenzo, che stai facendo là? No, voglio sapere. No, niente, sto mettendo su un film a mia figlia. Vabbè, ma al solito, insomma. Ma no, quello che volevo capire. Perché non vi alleate con Giannino? Chi lo sa? Magari succede. Magari succede, Beh, Giannino però non è dentro il Partito Democratico. Cosa c'entra? Ma noi ci rivolgiamo a tutti i cittadini, anche a quelli che non sono iscritti al Partito Democratico, altrimenti saremmo condannati a perdere, a fare una bella opposizione, ma pur sempre in minoranza. E non ci interessa, noi vogliamo cambiare e migliorare il paese, vogliamo andare al governo per fare meglio di chi... Comunque, guardate con interesse a Giannino, questa è la cosa. Altro che, anche a lui, sì. Eccoci qui, 19:17, La Zanzara, Radio 24. Parenzo, ci sei? Ci sono, la sento forte e chiaro. Gugiani, annunciando anche i nostri radioascoltatori che tra poco, non subito, ma tra qualche minuto, sì, ci sarà anche una nuova rubrica dedicata ai migranti. Sì. Fatta in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. Sì. Questa è una trasmissione che da oggi non farà più il solito circo, urla, mostri, dichiarazioni, sì, roboanti. È venuto il momento, d'accordo con Cruciani, ve lo annuncio, sì, di ragionare su storie di vita, storie di migranti, storie di persone che ce l'hanno fatta. Vi racconteremo gli islamici, musulmani che scappano da terre di conflitto, terre di guerra, sì, e che con le carrette del mare arrivano in Italia e magari diventano anche imprenditori. Oppure storie di rom, di zingari, sì, che sono anche attori. E infatti proprio per questo motivo, caro David, proprio perché abbiamo deciso di dare un nuovo indirizzo a questa trasmissione, un nuovo volto, una nuova linea editoriale più pacata, senza urla, che ti propongo uno degli ultimi interventi di Marione Borghezio quando parla degli islamici, soprattutto quando parla di razza bianca, perché di questo ha parlato dai suoi amici francesi negli ultimi giorni, ha parlato di razza bianca che deve prendere a calci, a bastonate, e quelli che entrano in Europa. È finita! Biglietto di sola data per i clandestini, fuori dai cognomi, Padania libera, bianca e cristiana, Padania libera, Padania libera, libertà, con Bossi, libertà, libertà, libertà. Caro Maroni, cari amici della Lega, cari amici della Lega, io non so, per carità, non mi auguro nulla, la Lega 2.0 qualche giorno fa, Marione Borghezio, europarlamentare, in un convegno di estremisti francesi, di tradizionalisti francesi, così li chiama lui, ha detto viva la razza bianca. Viva la razza bianca. Fatevi sentire i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Obama e Romney volano da uno stato all'altro per convincere gli ultimi indecisi. Domani un voto dall'esito in bilico, come ai tempi di Bush. Sentite un procura, il vice capo della polizia chiamato in causa da una denuncia anonima su presunti appalti truccati al Viminale. Non so chi sia il corvo, il ministro respinge le sue dimissioni. In settimana il governo presenterà il decreto sulle liste pulite, stop alla candidatura dei condannati fin dalle prossime regionali. Bersani, non mi ricandido a segretario, Renzi squadra se vinco, tutti utili, ma ora no a giochini sul governo, Vendola, il PD scelga tra noi e Casini. Saluti romani ai funerali di Rauti, Fini duramente contestato, sei un traditore, messa a sospesa, il presidente della Camera va via a metà cerimonia. Crescita negativa, giù redditi e consumi, disoccupazione sempre più alta, l'Istat vede nero anche per il 2013, grilli ci sono i fondi per i malati di SLA. Contro Fiat anche i sindacati del fronte del sì, l'azienda ritira i licenziamenti, la CISL minaccia ricorso, domani con l'azienda incontro a Pomigliano. E meno male, caro David, che l'amico Sgarbi era malato, meno male che era distrutto per il suo autista, per carità, in condizioni complicate, anche se in via di guarigione, meno male che era con il braccio rotto, un po' affranto, con la barba sfatta ieri dalla D'Urso, meno male che era un po' dimesso. Ti faccio ascoltare qualche sua performance, per esempio sul punto G. Cosa c'entrava poi con la discussione sul suo incidente? Ieri è stata costruita una parte della trasmissione di Domenica Live, il contenitore guidato, condotto dalla signora D'Urso nel pomeriggio di domenica su Canale 5, e era dedicata all'incidente di Sgarbi. A un certo punto si è scatenato sul punto G il malato Sgarbi. Una notiziona pazzesca l'incidente di Sgarbi, una notizia incredibile, imperdibile. Il punto G è una cosa bellissima, che tu goda, mi piace. Io sono contento che tu goda. Il punto G, sì, ma non facendo televisione! Il punto G, l'orgasmo è lecito! L'orgasmo è lecito! Stupate! Fate quello che volete! Andiamo a vivo! Viva il punto G! Viva il punto G! Viva il punto G! Basta! E se in televisione ce l'hai che faccia il punto G, meglio! Il malato Sgarbi, su. Ma perché dillo, vai in giro come una Madonna pellegrina a tutte le trasmissioni? Ma è bello che inizi la trasmissione con una faccia tutta compita. Sì, sono distrutto per questo incidente. Peccato, io sono felice che stia bene. Ma per carità, sono distrutto. E poi guarda come va a finire col punto G scatenato con le vene di fuori. Grillo, ignoranza al potere. Senti. Grillo è l'ignoranza al potere. Uno che propone Di Pietro presidente del Consiglio della Repubblica vuole l'ignoranza al potere. E grideremo al mondo. Poi se la piglia col ministro degli interni, il signor Cancelleri, perché gli ha sciolto il comune a Salemi. Basta con questa polemica, Vittorio. Ancora? Basta, basta, basta, basta. A Salemi la mafia non c'è e la cancelliere lo impari. La cancelliere ha insultato un paese, ha insultato la Sicilia e si vergogni. Un ministro che scioglie un comune dove non c'è la mafia non è degno di fare il ministro. Si vergogni, si vergogni, si vergogni. La cancelliere si vergogni. Con Toscani si vergogni. A Salemi la mafia non c'è, non c'è. Non c'è la mafia Salemi. E Grillo, vada il diavolo, la mafia non c'è. Si inventano la mafia per fare gli eroi. Ma tu ti rendi conto o no del delirio? Cioè, siamo al delirio pure. Cioè, il ministro degli interni, il ministero degli interni scioglie un comune per mafia e Sgarbi dice che la mafia non c'è. E poi manda a quel paese il ministro degli interni, la signora Cancellieri, adesso per quella. Anche dovrò mettere insieme il ministro e Toscani. Ma Toscani, Toscani poi se la prende per quello che ha detto qui alla Zanzara l'altro giorno, signor Toscani. Vabbè, anche lui ha fatto una battuta sgradevole, se vogliamo. Quelle cose che lui dice sono la prova dell'illusionismo con cui alcune persone inventano. Lui era stato mio assessore ed è una persona molto capace, un grande fotografo, è una persona intelligente, però ama fare lo sbruffone. Va bene, 800 24 00 24. Qualche ascoltatore. Marco da Milano, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica, dica. Due cose al volo. La prima è su De Benedetti, che per carità sarà vero che Berlusconi è ricattatore del millennio, ma è altrettanto vero che lui ha fatto la rapina del millennio. Sì. E perciò questo è una cosa assodata. Ma questo dipende dipende con quali occhi uno lo guarda. No, da qualsiasi occhio uno la guarda, chi è stato, chi ha fatto la rapina. Scusi, ma la rapina l'ha decisa la magistratura, evidentemente in questo caso, la cosiddetta rapina, l'ha decisa con una sentenza della magistratura. Uno può dire naturalmente che è una sentenza eccessiva, che la magistratura ce l'ha con Berlusconi, eccetera, ma non è che l'ha deciso De Benedetti, il bottino non è che l'ha deciso De Benedetti. Ho capito, ma la gente non è stupida e quindi lui dice che è ricattatore del millennio e Berlusconi, che ci può stare. No, ricattatore non ha detto, corruttore ha detto, non ricattatore. Corruttore. Vabbè, allora? Comunque... un'altra, la seconda cosa altrettanto velocissima, sì. Io tutte le sere la sento volentieri e mi è molto simpatico. Mi chiedo il perché Parenzo debba, però dobbiamo però spircelo questa sera. Lei è una tassa come l'IMU, è riuscito un attimino a stopparlo, ma quando su Pigi si è arrogato di dire noi siamo anche una radio che dobbiamo far capire alla gente chi è, lei l'ha stoppato giustamente, però mi sembra che stasera abbia un esagerato, che lui si erge a quello che vuol far sapere alla gente. Va bene, Marco, grazie. Carlo, un esempio pratico, Marco, di come si fanno i gol per radiofonici. Sigla! Sigla di che? Sigla di gol. Aisha, Aisha, écoute-moi. Viva il mondo islamico! Aisha, Aisha. Ecco qui, allora, in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio, spazio ai migranti. È con noi la signora Diana Pavlovic, rom attrice. C'è? Sì, ci sono, ci sono. Buonasera. Buonasera Diana, grazie per essere con noi. Allora, ci racconti la sua storia di rom, di attrice rom. Il signor Luciani in verità vuole sapere queste storie che fanno tanto bene al nostro paese. Ma la mia storia è una storia di una persona come tante altre. Sono nata e cresciuta in Serbia e mi sono laureata a Belgrado, ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, bello, sono venuta a Milano. Già mi sono annoiato, mi avete rotto le scatole. Carlo da Bolzano, buonasera, siete pazzi. Carlo da Bolzano, togliete dalle scatole questa signora che è intervenuta, anche Parenzo. Carlo da Bolzano, non voglio sentire storie buone, di bontà, di integrazione, me ne fotto totalmente. Carlo da Bolzano. Buonasera. Dica. Buonasera. Intervengo dopo Borghezzi e Sgarbi ed è complicata, però è su Renzi e sulle dichiarazioni del portavoce. Io sono di Bolzano, Renzi è venuto a Bolzano e il format che presenta durante le sue uscite dà sempre una domanda e una constatazione, che non chiederà premi di consolazione nel caso in cui dovesse perdere alle primarie. Renzi non ha bisogno di chiedere premi di consolazione, un lavoro ce l'ha già ed è quello di fare il sindaco di Firenze. E allora? Per cui se anche perdesse le primarie non ha bisogno di chiedere nulla, continuerà a fare il lavoro che sta facendo. Dunque? No, dunque niente, volevo solo dire che non c'è bisogno di andare in giro a chiedere premi di consolazione, non deve chiedere nulla, sta già facendo un lavoro, continuerà. Sì, ma ho capito, caro, lo sappiamo che continuerà a farlo, dunque? Ma lui in realtà chiede e dice che non farà, che non chiede premi di consolazione, mi sembra una richiesta tautologica, non ha bisogno di chiedere nulla, sta già facendo una cosa, può continuare benissimo a farla. Sì, ho capito, Carlo, ma dove vuole arrivare questo ragionamento? Non ho capito bene. Da nessuna parte, siccome il portavoce di Renzi sì. ha dichiarato che non parteciperà in Ciucci la questione del ministro o non ministro, e quando Renzi dichiara e continua a dichiarare che non farà alcuna richiesta, ripeto, non credo che abbia bisogno di fare richieste, perché non c'è bisogno di fare richieste, lui il lavoro ce l'ha già, ci sarebbe da discutere come mai si è presentato nel 2009 sapendo che le politiche erano nel 2013 e come mai invece adesso rinuncia a fare il sindaco di Firenze, perché nel caso vincesse le primarie immagino che rinuncerà a fare il sindaco di Firenze. Sì. Il ritorno di Nicole Minetti, non prenderò il vitalizio. Sentitela dell'avventura. Ma tu hai proprio bisogno di sto vitalizio di 1300 euro? Ma io il vitalizio di 1300 euro non lo prenderò. Non lo prenderò. Per due motivi che devono essere chiari. Il primo, il decreto Monti. Secondo motivo, il vitalizio si prende nel momento in cui tu maturi più di 30 mesi di legislatura. È meglio lavorare. Sempre se passa la riforma, sempre se passa questa riforma. Appunto, appunto. L'avventura dice devi dire che rinunci anche senza decreto. Quindi questo vitalizio non è così scontato. Io ho visto programmi che hanno veramente... No, ma scusa, adesso ti fermo, perché siamo qua, hai detto una cosa importante. Non dire per il decreto Monti, di che tu... Io, Nicole Minetti, rinuncio a questi 1300 euro, acquisteresti dei punti. Dillo! Io rinuncio a questi 1300 euro. Poi, non per il decreto Monti, anche se potessi rinuncerei. No, ma perché? Ma no, ma io non è. Ma no, perché non voglio neanche fare la paladina della giustizia che non sono. No. La Minetti dice che rinuncerà in ogni caso, poi bisogna vedere naturalmente Apicella, il mitico Apicella dalla parola. Ma può rinunciare, non ho mica capito. Ma non può rinunciare, può devolverli eventualmente se non passasse il decreto Monti, ma comunque deve versare i contributi per avere questo vitalizio. Apicella, se anche avessi visto Berlusconi toccare qualcuno, non l'avrei detto al processo. Mettiamo ipoteticamente che tu avessi visto invece, mentre che tu suonavi, lui toccare... una donna, una ragazza che era forse minorenne, l'avresti detto in processo questa cosa? No, perché sono uno che quando va lì lavora, non va lì per fare la le serate. Quindi non l'avresti detto. Tu sei come una piccola zanzara. E vabbè. Ma che lascia di argomento è, scusa? Se uno avesse ma scusami, visto. Ma tu mi hai chiamato a testimoniare, ma Apicella, ho capito che il nostro amico. Ho capito, ma è un. Qui veniva fatta l'ipotesi. Cioè, se tu avessi visto Berlusconi che metteva le mani addosso a minorenne, l'avresti detto. A parte che bisogna sapere che uno è minorenne. Cioè. No, ma se uno va in un processo. Ma è un'ipotesi testimone. Di scuola. A parte che ai processi, anche se tu hai visto una cosa, puoi anche mentire. Cioè, beh, no, se sei testimone è un reato, Sì, no, d'accordo, naturalmente se qualcuno poi... Come fai a dire, come si fa a provare che non hai visto? Perché deve giurare di dire la verità, cioè il testimone se dice una balla... Ma certo, è perseguibile. Però senti Carlo Rossella... Quindi avrebbe detto una balla, una roba gravissima. Ma che gravissima, senti Rossella... Oddio, non grave quanto i saluti romani oggi al funerale di quel signore della Repubblica. Ah, questa gazzarra fascista che è stata organizzata. Quella gazzarra indegna fascista, come deve chiamare? Ah, sei diventato politicamente corretto improvvisamente? No, questa è una gazzarra fascista. Un gruppo di camerati. Questa è una roba di una gravità. Io non capisco. I poliziotti devono togliere subito i documenti di quei signori con i braccianti. Vabbè, adesso esageri come al solito. Subito. Ma io l'ho capito. Mi dice, è morto il signor Rauti. Vabbè, ho capito. Uno può anche dire non mi dispiace, no? O è reale. Oppure... No, perché a te non dispiace che è morto Rauti, scusa? È morto, quindi vabbè, è morto. Ma ho capito, a te non dispiace... A te non dispiace... È come se muore Pribica, ma sei malato. No, ho detto Pribica, che è stato... Tu stai facendo un paragone ridicolo, scusami, lo sai, no? Non ho detto come, se no, chiedi, no, tu stai facendo un paragone ridicolo. Fammi spiegare, se tu mi chiedi se muore Prim che ti dispiace, devo dire no. E dunque se muore... Rauti, io non vado ai funerali di Rauti perché è stato uno della Repubblica Sociale Italiana. Ma che c'entra? Quindi che c'entra? Vado. Pure Tremaglia è stato nella Repubblica Sociale Italiana. Mi dispiace, non lo conoscevo, non è che posso dire mi dispiace. Vabbè, mi tu dispiace. Non dici né ti dispiace e l'hai paragonato no, a Creato. E l'hai paragonato a Pribke. E l'hai paragonato a Pribke. Non l'ho paragonato a Pribke. Sì, l'hai paragonato a Pribke. Non mi dispiace. L'hai paragonato a Pribke. Lui è stato uno che ha... Ma che ha? Che cosa? Ha aderito alla... E allora? E allora? E allora? Posso non ho capito, non ti dispiace che è morto? No, vabbè, ma questo qua lo registro. Non ti dispiace. Non auguro una morte a nessuno. Rossella, Rossella, è un errore con Berlusconi. L'errore che ho fatto con Berlusconi è allungargli i capelli su Panorama. Senti. Ma nei rapporti con Berlusconi credi di aver commesso qualche errore o no? Sì, l'errore che ho commesso è stato un errore stupido, devo dire. Perché a un certo punto ho pubblicato una copertina di Panorama dove sono stati allungati i capelli a Berlusconi. Allora io pensavo fosse una goliardata, invece poi è diventata una cosa seria, addirittura internazionale. Beh, una goliardata, insomma, l'hai fatto per piaggeria, insomma, diciamo la verità. Sì. Non è che l'ha fatto per... Ma quale per, goliardata? Per goliardata. Del giornale? No, di un giornale, Panorama. Sì, Panorama, scusa. Intanto la Fornero oggi ai cronisti ha detto andatevene, se ci siete dovrò pensare ogni parola. Non è bello. Perché dice, uno fa un discorso di 40 minuti e poi loro fanno il titolo su una piccola frase che ho pronunciato e per questo li ha messi alla porta da un convegno che ha fatto a Torino. Quella stampa, bellezza. Leonardo, provincia di Macerata, 800240024. Crusciani, buonasera e buonasera. Sì. Naturalmente i cronisti non sono usciti, e dunque il ministro ha detto parlerò molto più lentamente perché ogni parola dovrò pensarla, naturalmente farò degli errori, questo è indubbio e saranno gli errori a fare i titoli, questo l'ho imparato sulla mia pelle. Ho capito, ma funziona così, cara Fornero, non, si... è la stampa, non bisogna stupirsi e soprattutto non bisogna mettere le persone alla porta. Leonardo, dica. Sì, due piccole cose al signor Parento. Dove paga le tasse dei Benedetti? Si spiega agli ascoltatori in una Italia. Differenza reale tra la Olivetti e la Fiat e in se è Italia. Stato mai condannato. In Italia. Le paga in Italia. Okay. E poi un'altra cosa su Renzi, non so se ancora il signor Reggi è con voi. Io ho due amici che fanno vigili urbani al comune di Firenze, sì. E mi informano che hanno avuto congelato l'aumento di stipendio concordato, pianificato, mentre i dirigenti del comune di Firenze lo hanno ottenuto. Non ho capito nulla, scusi. Praticamente i vigili urbani non hanno ottenuto un aumento di stipendio che era pianificato di 40 euro al mese. Sì, va bene, d'accordo. Allora non lo so mentre nulla di questa storia. I dirigenti lo hanno ottenuto. Cioè lei dice Renzi ha favorito i dirigenti del Comune di Firenze. Questo è quello che risulta. Vabbè, guardi, sinceramente l'argomento mi appassiona poco. Intanto il capogruppo dell'Italia dei Valori, Donati, si è dimesso da capogruppo. Ha annunciato le sue dimissioni a fine, ma insomma dopo quello che è successo nell'Italia dei Valori è quasi scontato. Gianni da Torino, buonasera. Molto buonasera. Dica. Io semplicemente volevo mi stavo chiedendo come mai Renzi e il suo staff, che ha parlato insomma con la persona con cui avete parlato prima, si lamentano così tanto che il PD va a sinistra. Cioè, da quello che so io, il PD è un partito di sinistra. Loro invece continuano a parlare solo di cattolici. No, di cattolici non parlano mai, veramente. No, veramente, l'ha detto prima mentre parlava con voi, che ha detto che il PD andava troppo a sinistra e loro volevano riportare un po' di mentalità cattolica. Ma quando mai? Ma quale mentalità cattolica? No, questo ma questo l'ha sentito lei? Cioè, no, non l'ho sentito io. Ma dopo tutto loro sono, insomma, la storia di Renzi è la storia di figlio di un ex democristiano. Insomma, non ha mai nascosto il fatto di voler togliere la parte sinistra al PD, o mi sbaglio? Vabbè, allora non ho capito. Qual è la conclusione di questo ragionamento? Niente, la conclusione è che penso che farebbe meglio a candidarsi magari per un altro partito che è già cattolico, tipo l'UDC o il centrodestra, e non venire a cercare di comandare nel PD per cercare di riportarlo anche lui verso il cattolico. Ho capito. Luigi, provincia di Napoli, buonasera. Buonasera, signor Cusciani. Io volevo dire qualcosa in base al sindaco di Firenze. Volevo dire, non dovevo fare la rottamazione, dovevo fare il latrocinio, evitare il latrocinio, perché in questo paese... Non ho capito niente, scusi. Vabbè, Luigi, di cosa sta delirando lei? Io sto dicendo, sì. Invece di fare la rottamazione, sì. Dovevo fare qualcosa per eliminare il latrocinio. Sì. Potesse che così il paese si mettesse in coda. Noi stiamo facendo una cosa molto grave, perché abbiamo poca gente che lavora e troppe che non lavorano, troppi che rubano, mettetemi una canzone, troppi che ladano. Questa è la vera politica. Ma che cosa stiamo facendo? Zanzara! Ho trovato un nuovo metodo per azzittire le persone che delirano, quando non è il caso di farle continuare a delirare. E qui abbiamo anche il Dalai Lama che prende in giro Berlusconi. Siamo arrivati a questo, anche il Dalai Lama prende in giro Berlusconi. Sentite, a un certo punto si mette a ridere quando parla di Berlusconi Premier, il modo in cui è caduto Berlusconi, eccetera, eccetera. Senti in inglese, Our Prime Minister, former Prime Minister, resigned. Non necessariamente è stata una scelta volontaria e felice. L'ha fatto perché è stato costretto a farlo, non come me. Io sono ben voluto, ho il sostegno di tutti, ma volontariamente e felicemente mi sono dimesso. Non si possono comparare le mie dimissioni e quelle del vostro ex premier. E ride anche della grossa. Senti, senti, senti la risata. Ce l'abbiamo la risata. La risata del Dalai Lama. Adesso la mettiamo, Tu ti rendi conto? Persino il Dalai Lama. Persino il Dalai Lama. Ma cosa fa? Una persona così pacifica ha fatto un'analisi perfetta, mi pare. È con noi Michela Biancofiore. Buonasera. Buonasera, come state? Come sta lei? Come Eccola. Sta? Bene, molto volevamo bene. Alzare un po' il livello, onorevole. Prego, l'ho sentita male. No, dico, volevamo alzare un po' il livello, allora abbiamo deciso di tornare con lei. Siete carini, lo sapete, vero, con chi avete a che fare. Senta, ma anche il Dalai... Quanto è bello, cioè così, partiamo subito soft, quanto secondo lei è anche proprio fisicamente bello Berlusconi? Ma è un uomo molto affascinante, bello, non è oggettivamente bello, è sicuramente un uomo molto affascinante, molto carismatico, al di là della questione economica che purtroppo in genere alletta le donne drammaticamente, però è un uomo estremamente affascinante, molto galante, e quindi poi è un uomo che piace, è inutile, al di là appunto della questione economica. Bene. Senta, ma è vero che io non riesco ancora a capire, perché lei non è andata per esempio in Kenya con Berlusconi? Dato che, Perché io non faccio assolutamente parte innanzitutto della cerchia assistenziale, o meglio della cerchia assistenziale degli assistenti che seguono il presidente Berlusconi. No, giusto, nemmeno mi interessa, a me interessa seguirlo in politica, certo, non nelle sue vacanze, diciamo, le persone che sono andate lì sono soprattutto persone di supporto, diciamo, no? Ecco. No, è l'assistente Maria Rosaria Rossi, che l'assistente. Un'altra volta vi ha già sottolineato che va a difesa ad oltranza. No, per carità, per carità. Personale che gli sbriga tutti i suoi fatti personali, quindi sì. Non vedo perché non doveva essere. Ma c'è anche il maggiordomo? Che la politica va avanti, prego. Dire, un uomo ricco e potente come lo so che lui ha un maggiordomo. Ma che c'entra il maggiordomo? C'è la villa di Briatore, ce l'avrà lì. Cose importanti. Ma non lascia perdere il maggiordomo. Francamente non ho mai visto il maggiordomo. Ma che c'entra il maggiordomo? Sì, insomma, io non ho mai visto il maggiordomo. Questo non sa niente, parla di maggiordomi. Scusate, però un po' insomma, la sua presenza in questo entourage potrebbe anche mancare, se abbiamo, lei considera una delle fedelissime, cioè lì c'è due, politicamente parlando, assolutamente, infatti ne vado anche fiera e lo ribadisco con ostinazione, anche con coraggio. Non credo che sia un demerito essere leali fino alla fine nei confronti di però chi le sarebbe ha piaciuto comunque la vita e ci ha dato una possibilità. Dovrebbero esserlo in molti, invece sono i primi ad essere ingrati, questo lascia sempre molto esterefatti, ma le sarebbe piaciuto dell'animo umano. Certo, ma le sarebbe piaciuto andare in Kenya? Ma assolutamente no, sono appena tornata da una mia micro vacanza con il mio fidanzato, quindi voglio dire, non vedo perché dovevo andare in Kenya. Ah, qui siamo al top, lei è fidanzata allora, ufficialmente, possiamo dirlo? Sì, può dirlo. Possiamo dirlo, Può dirlo, ma assolutamente sì. Matrimoni no? Ma al momento, un po' troppo presto. È presto. Micro vacanza con fidanzato, 30 secondi, torniamo subito, parliamo naturalmente di cose politiche, 800 24 00 24. Beh, questa cosa del Dalai Lama, le lancio subito un amo, onorevole Biancofiori, il Dalai Lama che prende per il culo Berlusconi, prende in giro Berlusconi ridendo, dicendo se uno non è seguito dal popolo si deve dimettere, non è andato via di sua volontà, si mette pure a ridere. Ah, si metta pure a ridere il Dalai Lama, in ogni modo Berlusconi lo ha sempre aiutato direttamente e indirettamente, poi già, mi incuriosiscono molto questi leader stranieri che si occupano sempre di Berlusconi. Io credo che il Dalai Lama abbia cose molto di più importanti di cui occuparsi, che appunto la questione del Tibet, che è ancora fortemente irrisolta, nonostante leader che lui probabilmente stima di più e che lo aiutano molto di meno. Ho capito, però Dalai Lama si è messo a un certo punto quasi a ridere, quasi irridendo Berlusconi di fronte a una domanda. Ha, ha, ha, ha. Una risata di grassa ha fatto. Parliamo tra qualche tempo, a parte che il Dalai Lama non irride nessuno, il Dalai Lama, beh, di colore pacifico e sornione, ovviamente sorride sempre. Beh, ha detto non è andato via di sua volontà Berlusconi. Una cosa un po'... è vero, su questo da un certo punto di vista è anche vero, purtroppo, che ci sia stata una congiuntura nei suoi confronti e un complotto era del tutto evidente. Comunque, insomma, pensasse al Tibet, voi, no? Credo che sia molto chiaro agli italiani, voglio dire, la questione dello spread parla chiaro, hanno montato tutto sullo spread, quando lo spread è aumentato esponenzialmente anche con Monti, poi è sceso, poi è rimontato, che ci sia una speculazione internazionale ai danni dell'Italia è evidente. Scusi, chiunque però non è, voglia tapparsi gli occhi, insomma. Lei che è una fedelissima di Berlusconi, una comunque che lo stima moltissimo, per usare così anche un eufemismo, ma è la verità, sì, non è sì, però scusi, ma questo Dalai Lama che quasi, insomma, alla fine sfotta Berlusconi, lo piglia in giro, lo piglia per il culo, su, diciamo la verità. Questa è una vostra convinzione. Ma no, ma lo dicono tutti, lo dicono sempre i soliti noti, su e via. Ma no. Siamo abituati, a me interessa voti che prende Berlusconi tra gli italiani. I voti sembrano molto pochi, sembrano molto pochi. Sì, vorrei sapere sui sondaggi chi li ha fatti e chi li ha diffusi, i sondaggi del 4%. Cioè, vediamo, secondo lei chi ce l'ha? No, lasci perdere il 4%. Secondo lei quanti voti c'ha Berlusconi adesso? Così facciamo. Infatti, quattro anni fa ne ha presi 15 milioni. Quattro anni fa non è che hanno votato il PDL, la gente voleva lui, ha votato lui. Oggi quanti ne ha di voti? Dovuto alla zavorra del partito che purtroppo gli si è sciolto in mano a causa dei notabili che io ovviamente ho sempre denunciato. Per cui secondo lei quanti voti ha ancora Berlusconi? Come oggi avrà ancora 10 milioni di voti che possono incrementati, sono assolutamente certa di quello che 10 dice. Milioni insomma, di voti che possono aumentare. Me ne intendo, no, per carità, a me nessuno dice niente, quindi le assicuro. Poi, a differenza di molti miei colleghi, soprattutto fra i notabili, sto ancora fra la gente. Non so che mi avete preso in giro l'altro giorno perché vado a fare la spesa col carrello, mi avete preso per i fondelli. No, però è vero. Appena prima di andare adesso, se andate nel supermercato vicino a casa mia, mi vedono fare la spesa a Roma. E che ha sentito dire? Io sento sempre parlare molto positivamente di Berlusconi, anche stasera. Ha sentito parlare bene? Stasera no. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore. Eccoci qui, 800 24 00 24. Risulta anche che Berlusconi abbia chiesto scusa. Secondo me, Parenzo, tra l'altro, Berlusconi non ha chiesto scusa in questa anticipazione del libro di Vespa. Berlusconi ha detto: chiedo scusa perché non ce l'ho fatta, è intervenuta la crisi, che non è proprio una scusa, dice non ce l'ho fatta solo per la crisi, per colpa della crisi. Poi Berlusconi non chiede mai scusa per definizione, Biancofiore. No, non è vero proprio per niente, anzi il contrario. Berlusconi, come tutti i grandi uomini, conosce l'umiltà e la saggezza dell'umiltà. È stato un grande gesto dal mio punto di vista. L'umiltà, al contrario di quello che tutti pensano drammaticamente, o quantomeno che voi il sistema mediatico fate pensare di Berlusconi, lui è una persona di una tale gentilezza e di una tale umiltà forse talvolta troppo, perché troppo spesso si è sottoposto alla giaculatoria di alleati e talvolta anche della sua stessa famiglia. Scusi un attimo, ma come leader mondiale è stato più importante Berlusconi o Dalai Lama? Non mi fate queste domande. No, come no? Dalai Lama ha una posizione molto diversa rispetto a Berlusconi. No, però io sono tutti e due leader mondiali, no? E sono stati leader mondiali. Sono due leader mondiali molto diversi. Molto diversi, però chi è hanno tutto un altro tipo di funzione, non prendiamo in giro gli elettori. Però, no, ma chi ha avuto più peso nella storia mondiale? Dai, su, smettete. No, a me interessa, posso dirvi una cosa? Sì. A me interessa quale peso hanno avuto nel mio paese i leader, e secondo me non c'è un leader paragonabile a Berlusconi. Tutto qua. Vabbè, quello l'abbiamo già detto. E agli italiani interessa cosa ha fatto Berlusconi e cosa potrà fare ancora. Ma perché va sempre in Kenya poi? Perché va sempre in Kenya? Perché in Kenya c'è questo resort di Briatore, che è il suo carissimo amico, dove effettivamente ha perso 7 kg e ne vuole perdere ancora per essere in forma per la campagna. Ma è una cosa, vuol dire, siamo in un momento caldo, uno ha aggiunto via e se ne va in Kenya. Perché lascia giocherellare i suoi notabili con le primarie, gli piace questo nuovo giochino, glielo lascia fare. Lei è contrario, mi sembra di capire, ha già detto che dove non ma so. Io sono formalmente contraria per un semplice motivo, che abbiamo Berlusconi ma e basta. No, io l'ho detto prima. Perché? Molto prima, anche quello che sta succedendo dovete darmi atto che sì, l'ho detto almeno 2 anni fa. C'è dubbio. No, io conosco purtroppo l'andazzo dei partiti ed è il motivo per il quale la gente si è sempre più distaccata dai partiti, anche i simpatizzanti, gli iscritti e via discorrendo. Purtroppo le primarie non sono altro che una sorta di congresso allargato per far contare le cosiddette correnti ai fini della suddivisione, quindi del manuale Cencelli delle prossime. Poi scusi un attimo, ma che servono le primarie per un partito che c'ha il 15% in teoria? Appunto, peraltro, voglio dire, quindi, cioè, un partito che ha il 15% questo dovrebbero servire a rilanciarlo, invece così c'è una suddivisione ancora più chiara e più netta. Io credo che il PDL abbia fatto purtroppo la sua storia, non è che è finito, è morto. Non è che sono felice di questo, perché però è morto su di Berlusconi nel 2008 purtroppo è stato massacrato dalle correnti interne portate soprattutto dalla tradizione degli ex-N, è stato massacrato da una nomenclatura che ha avuto il coraggio di portarlo dal 40% al 15%, si è snaturato, è morto forma berlusconiana, e quindi non è più perché Berlusconi continua a dire che Alfano è il miglior figo del bigoncio, il migliore protagonista in circolazione. È vero, io purtroppo non ho la fortuna di conoscere Alfano bene come lui, non è che abbiamo mai avuto grandissimi rapporti. Ma secondo lei è più figo del bigoncio? Gli appuntamenti francamente non me li ha mai concessi, quindi evidentemente non mi ritiene alla sua altezza. Detto ciò, io considero è il miglior figo del bigoncio? Lei lo considera il miglior figo del bigoncio? Se parliamo da un punto di vista estetico, no. Decisamente no. Da un punto di vista intellettuale, credo che sia un ragazzo che ha veramente tanti numeri. Lei non lo toccherebbe con un dito, signora. Ma perché dovrei toccare il mio segretario politico con un dito? Credo di fare politica da 20 anni e di farla seriamente. Se questi avessero un quarto dei voti che ho io, probabilmente il mio partito sarebbe andato molto meglio. Ma dove ce l'ha sti voti lei? Andate a cliccare sul Ministero degli Interni, certificati non dai partiti, ma dal Ministero degli Interni. There must be some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito, and that means I'm gonna go bite, bite, bite, bite, bite, sir. La zanzara riprende alle 20 in punto. Caro Parenzo, in collegamento dal Granducato di Siena, io qui da Milano, 800 24 00 24, con l'onorevole Micaela Biancofiore. Lei ha il punto G quando va in televisione? Prego? Lei ha il punto G quando va in televisione? Ha un orgasmo, come dice Grillo? Guardate, lo squallore del maschilismo italiano da Grillo ai miei è talmente basso che non vorrei veramente neanche che a voi vi ne venisse neanche in mente di riempirvi la bocca di queste cose. No, però secondo me ha detto, Grillo voleva dire che chi va in televisione ha un orgasmo, perché i parenti... No, anzi, guardi, le posso assicurare che anzi posso dirle che non mi interessa neanche più di tanto andare in televisione. No, godono volentieri, sì, devo dire che spesso e volentieri sì, vedo veramente una rincorsa alle telecamere che credo che non farebbero mai nemmeno con le loro mogli o fidanzate, puntamanti o via discorrendo. Comunque veramente ormai la politica italiana sta talmente... Per cui lei difende questa Salsi, la difende un po'? Assolutamente sì, anzi se fossi in Berlusconi la prenderei, la candiderei subito. Addirittura? Ma certo, perché ha avuto il coraggio, mi sembra una ragazza preparata in gamba. Da prendere subito. Do un consiglio a Berlusconi, prendi la Salsi. Tanto... No, non prendila da quel punto di vista che voi pensate. Fare politica in questo trattato. Ma non stavo pensando a quello. Fare politica in generale. Ho capito che come vedete una donna pensate sempre che possa accompagnarsi con... Ma non stavo... Ma no, sono molti altri sui quali bisognerebbe scoprire gli altarini, che Berlusconi per fortuna della sua nota virilità non ne fa mistero, altri invece si nascondono e vengono chiamati... Ma perché, scusi, perché è virile Berlusconi secondo lei? Ma assolutamente sì, è un uomo con la U maiuscola, assolutamente sì. Un uomo virile? Ma scusi, ma come fa lei a saperlo se è virile o no? Scusi, Se vede, non è che voglio dire, no, io non lo so, per questo glielo posso assicurare. Anzi, lo potete chiedere anche a lui e potete subito sapete subito quale affermazione farà, ce la fa sempre davanti a tutti gli ospiti. Cioè che fa? Che dice? Non ci sta niente da aggiungere, io e lui abbiamo un rapporto strettamente politico, quindi proprio altro da aggiungere non c'è. E allora come fa a sapere che è virile Berlusconi, scusi? Ma si vede, è un uomo al quale piacciono le donne, quindi cioè un uomo virile. Un uomo virile. Beh, Bah, è un uomo che non fa mistero, gli piacciono le donne, ci sono tanti altri leader di partito, sì, per non dire parlamentari o politici di basso, sì, livello a livello regionale, locale, eccetera, sì, di cui si sa tutto, che non emerge mai e, sì, che sono veramente invece, hanno magari altro genere di attitudine, peraltro, e che ma anche, sono anche, dirigenti del, anche dirigenti del PDL, la famosa nomenclatura, no? Ma non lo so, non mi interessa la vita privata della nomenclatura. Scusi, però questa cosa del transfer tra lei e Berlusconi, cioè, il transfer mentale. Che fa sempre una nota giornalista della carta stampata, perché ogni, sì, volta che mi chiama, e io l'ho solo riferita, ogni volta che mi chiama io le dico, secondo me Berlusconi dirà o farà, sì, così, e il giorno dopo Berlusconi dice o fa così, ma è normale, io applico il cosiddetto berlusconismo esattamente da 20 anni a questa, cioè, parte, d'altronde non l'avrei assolutamente seguito se non fosse così, e ho vinto tutte le campagne elettorali grazie a quello, se uno, cioè, va in Trentino Alto Adige e dice, sì, Berlusconi, dice Biancofiore, dice Biancofiore, dice Berlusconi, addirittura l'ultima campagna elettorale, sì, alle europee io ho preso 33.000 preferenze, Berlusconi 44.000. Ma scusi, ma secondo, ma se non ci fosse stata Berlusconi, lei che cosa sarebbe stata? Non lo, chissà, so, probabilmente non avrei fatto politica, perché, vabbè, io quello, ho sicuro, Berlusconi, quello sicuro, quello sicuro, ma no, quello sicuro, le facili battute sono sempre scontate, io ho seguito Berlusconi dal 94, anzi dalla fine del 93, sì, per il semplice motivo che credevo e tuttora credo che fosse, sì, solo lui la persona che poteva cambiare lo status quo del paese. La sua, e purtroppo, vita non essendoci riuscito nemmeno lui ancora, sì, ancora, perché insomma, contornato delle persone giuste, probabilmente ci può riuscire, sì, anche ci riuscirà, insomma, chiaramente non vedo altri leader del paese, non seguirei, sì, nessun, ma altro, De Benedetti, anche, che dice, dico anche di più, sì, che io ho detto già in tempi non sospetti che nel momento in cui Berlusconi non sarà più in politica, anche la Biancofiore non ci sarà più, perché ovviamente mi pare un progetto difficile, politico, certo, che sì. No, no, mi pare difficile. Io i miei voti li ho detto. No, ma ho capito, senza Berlusconi, però, senza Berlusconi. No, no, no, e non sto, sì, e non sto seguendo una candidatura, perché tanto con le posizioni. Comunque tutti che ho preso, dicono, tutti è dicono che i miei capi non mi candiderebbero mai, certo, e crede che questo mi spaventi. Scusi. Francamente ho sempre fatto tutto, certo, nella mia tutti vita dicono, da sola, Biancofiore, tutti dicono che qui il Dalai Lama ha preso per in giro Berlusconi, ancora, vabbè, tutti lo dicono, ma tutti chi sono questi? Ma tutti l'informazione ne parla, il Dalai Lama che prende in giro Berlusconi, su. Vabbè, vabbè, a me interessa che non lo prendano in giro gli italiani, non il Dalai Lama, anche fosse, pensi, ma io credo, anche fosse, capito? Pensi al Tibet, dice lei, no? Prego? Pensi al Tibet, dico, il Dalai Lama. Ah, pensi al Tibet, esatto, ci sono tanti di quei problemi, pensi alla pace nel mondo, ci sono tante zone francamente disastrate, quali insomma un po' di pace. Perché dovrebbe pensare un po' a Berlusconi? Di atteggiamento. Ma lei è convinta? Io vorrei sapere perché, vede, questo uomo fa talmente tanta paura, sì, e sanno tutti che può tornare ancora al governo addirittura domani, che se ne occupano tutti. Io vorrei sapere, lui sta in Kenya, fa le sue belle vacanze. E il Dalai Lama parla di lui. E tutti parlano, non solo il Dalai Lama, voi, sì, e tutti quanti parlano di lui. È paradossale. Anche De Benedetti, anche De Benedetti. Indietro, pure, vabbè, De Benedetti anche, è una vita che parla di lui perché vorrebbe essere lui. Lui vorrebbe un transfer con Berlusconi. No, vabbè, addirittura. La parola bocca che ha nei confronti. Ma certo, ma no, sempre, dai, su. Chiunque conosca De Benedetti, sì, chiunque conosca Berlusconi, sì, anche i nemici di Berlusconi dicono che comunque non è possibile nemmeno essere amici di De Benedetti, per quanto caratterialmente sia una persona molto schiva e molto, sì, negativa, in che insomma, senso? Dal punto di vista caratteriale, mentre Berlusconi è sempre gentile, gaia, vabbè, gaio, ognuno ha il suo carattere, tutti, su, vabbè, ho capito, però fa la differenza anche quello, la gentilezza, il modo di porsi, vabbè, adesso lei dice non è gentile De Benedetti, vabbè, pazienza, ma ha detto anche, poi che Berlusconi dicono, io non lo conosco, è il corruttore del millennio, insomma, ha fatto, sì, la, beh, mi basta la risposta che gli ha dato Marina Berlusconi, che conta molto di più, insomma, è meglio che taccia, e poi vedremo cosa deciderà, sì, la Cassazione. Quello che vorrei vedere è se mai gli restituirà i soldi quando la Cassazione dirà che aveva ragione Berlusconi. Io ne sono certa di questo, perché io, a differenza di, sì, molti altri, ho grande, lei prevede la decisione della Cassazione, eh? Ma sono convinta che la Cassazione, perché quella, sì, sentenza è proprio un urlo alla, un urlo, giustizia. Allora, siccome io nella giustizia credo, sono posto, sì, in una procura della Repubblica, quindi capisce bene che insomma io credo che ci siano ancora magistrati molto seri, sì, e la Cassazione ristabilirà la verità dei fatti, quindi, sì, lasciamo fare la magistratura. Quello che mi preoccupa è che il signor De Benedetti, sì, non restituirà, a differenza di Berlusconi, probabilmente le cifre. Beh, come no, se uno non deve più dare quei soldi, le restituirà. Andate a vedere i bilanci dei gruppi. E che succede? Perché dica così. Che succede? Beh, perché se tutti i bilanci sono in negativo, come fai a ridargli i soldi, no? Ci sono delle tecniche abbastanza, no? Vediamo, facciamo una scommessa, vediamo. Vabbè, se glieli darà. Berlusconi adesso li ha dati sull'unghia, vediamo, sì, se lui glieli darà. Comunque, vabbè, questo,

italiani. Quindi, detto pronto? Sì, sì, pronto? La sento. Mi sentite? Sì. Esiste un gruppo di persone cosiddette lealiste berlusconiane, sì, che è fatto di uomini e di donne, che sicuramente staranno accanto a Berlusconi fino alla morte. Lui sarà in politica. Fino alla morte. Fino alla morte, mi auguro che non muoia ancora da qui a lungo tempo. No, vabbè, ma allungato la vita. Nel bunker, fino alla morte, nel bunker. Nel bunker. Adesso facciamolo passare anche come un dittatore, che viene veramente da ridere. Per carità, no, perché ormai veramente gli ascrivete di tutto, quindi poveraccio. No. D'altronde è giusto, se noi siamo le amazzoni, chiaramente, no? Pensate quanta bassezza c'è, ma cosa devono pensare gli italiani rispetto a questo? Vabbè. Pensate quanto facciamo paura, se effettivamente. Scusi, però l'interrogazione parlamentare avanti al ministro Terzi per il caso del signor Sloan, quello mi sembra francamente. Ma lei perde tempo, ma non deve perdere tempo. Su, ma non come deve perdere tempo, è il mio mestiere, faccio il parlamentare, faccio quello di mestiere. Grazie, grazie. Tempo. Difendere l'Italia e perdere tempo, per voi forse, per me no. Grazie, buona serata. Pubblicità. Grazie mille, arrivederci. Quando la zanzarina tormenta la mia noce. Eccoci qui, 800 24 00 24. Mario, provincia di Chieti, buonasera Mario. Buonasera dottor Cruciani. Vada. La seguo volentieri. Una cortesia, solo un chiarimento più che altro, se me lo può dare. Ma quando intervista l'onorevole Biancofiore, non so se è ancora in linea. No, non è in linea. No, è una sorta di... Cioè, io, diciamo, suppongo che lei usi molta ironia nell'intervistarla. Ma lei è un test che fa, oppure... Un test di cosa? Beh, non lo dico. No, lo dica. Mario, qui si può dire no, tutto. No, perché... No, sembra che lei, diciamo, giustamente con la sua intelligenza non comune... Cioè, usa testare, diciamo, chi c'è di fronte per vedere se capisce l'ironia oppure meno. Esempio, il parallelo che ha fatto tra Berlusconi e Dalai Lama circa l'umiltà, ecco. Mario, cosa vuole che le dica? Le dice se la Biancofiore scherza o fa sul serio quando parla, se è seria oppure ironizza anche lei. Secondo me è assolutamente seria. Giuseppe dalla provincia di Chieti, buonasera. Buonasera, dottorino Cruciani. Sì. La posso chiamare dottorino? Sì, come no. Va bene, ha migliorato e sta prendendo punti. Io volevo parlare di Marchionne. Sì, vada. Allora, volevo sapere se è un ordine di scuderia del suo presidente comunista che si è fatto fotografare con quelli che fa che si fuma le canne, no, della CGIL sotto il braccio, no? Vi ha arrivato l'ordine di scuderia di parlare male di Marchionne? Ma chi? Chi parla male di Marchionne? A voi, alla vostra trasmissione, perché... Ma chi è che si fuma le canne? Chi è che si fuma le canne? Davvero Benedetti, sì, il più fallito d'Italia. Giorni fa Renzi, quello che gioca con le bamboline, il costruttore di scarpe che lo fa in Cina e poi lo rivende, che vale quanto un parafango della Fiat. Cioè, vi è arrivato un ordine di scuderia, cioè questo volevo capire, a sparare contro Marchionne, perché io da abruzzese, forte e gentile, sì, mi dà fastidio queste cose. Guardi, a me non me ne frega. A me non me ne frega niente. Si abitui a sentire opinioni diverse dalle sue e a sapere che un uomo come Marchionne ha fatto una vera e propria rappresaglia. Ma questo lo dici tu? Condannata dalla magistratura italiana. Ma che stai non è quella zitto. Svizzera dove lui ma ha non la c'entra residenza, niente la rappresaglia con quello che stai dicendo, la cosiddetta rappresaglia. Una residenza in Svizzera. Ma la vuoi smettere con queste buffonate? In Italia ci sono delle regole. Ma smettila con queste buffonate. C'è smettila. Una magistratura che ha deciso che c'è stata discriminazione, sì, quindi lei beva qualche bicchiere di vino in meno, sì, e almeno su questo provi a essere lucido, almeno sui fatti, capito? Senti Parenzo, lascia perdere l'ascoltatore che stava evidentemente delirando, perché noi non abbiamo assolutamente fatto il tiro nei confronti di Marchionne, ma stai delirando anche tu, perché non c'entra assolutamente nulla la decisione della magistratura. Come no? No, ma che cosa c'entra la decisione della magistratura? La questione dei 19 assunti, ma vuoi capire qualcosa o no? Che un'azienda funzioni, dovresti capirlo bene, che una cosa è farla funzionare con 20 dipendenti in più, una cosa con 20 dipendenti in meno. Lo vuoi capire che i numeri sono i numeri oppure no? Oppure no, pensi che sia la stessa cosa? Quelle persone non sono state assunte nel blocco previsto, sì, perché erano iscritte alla CGIL, alla FIOM. Sì. Ma come si fa? Lo scrive e lo dimostra un magistrato in una sentenza. E sono state riassunte, benissimo, sono state riassunte. Non sono state riassunte sulla base di una discriminazione. Sì, ma lascia perdere, quello sono state riassunte. Adesso lui ha detto, benissimo, io metto in cassa integrazione 20 persone, perché l'azienda... No, perché l'azienda non può funzionare per ordine di un giudice, per decisioni prese dai magistrati, hai capito sì o no? Non è hai capito il sì punto. O no? No, come no? È questo il punto. Perché anche 19 persone non dovevano essere lasciate ho fuori capito. Sulla base di un criterio discriminatorio. L'azienda va gestita in un modo normale, non attraverso le sentenze ah, della magistratura. È normale mettere, fare non... le liste? È Senti, normale fare le liste? Ma questo è un altro discorso. Degli operai buoni e cattivi? Va bene, Danilo da Cuneo, buonasera, fammi sentire Danilo da Cuneo. Buonasera Crociani, buonasera Paradiso. Oh, scusami Danilo, scusa un secondo Danilo, ma io ripeto, la cosa che mi indigna oggi sì, è vedere saluti romani dentro la basilica, non solo fuori, che già quello basterebbe dire una polizia arrivare. Va bene, vuoi mandare i carabinieri da questi qua che fanno ma, il saluto romano? Ma benissimo. Dentro la chiesa della basilica di San Marco saluti romani, saluto al camerata Rauti 3 volte. Danilo da Cuneo. Ma sembrava di stare nel film... I fascisti immaginari. Danilo da Cuneo, ma sono cose folcloristiche. Sono. Ah, Danilo, folklore, cioè puro folklore. Danilo da Cuneo. Vi chiamo, volevo difendere Parenzo questa volta. Prima però, secondo l'intervento che ha fatto la vostra ospite di prima, che Berlusconi ha ancora 10 milioni di elettori a suo favore, ma facciamoci una risata tutti insieme. È un delirio naturalmente della signora Biancofiore, come è evidente. Facciamoci no? una risata tutti insieme. Ma quali 10 milioni di voti? Su, quali 10 milioni di voti? Di che parliamo? Dai, 10 milioni di voti esatto. Nei sogni della signora Biancofiore. Diciamola tutta, su. Che faccia bei sogni. Comunque vi ho chiamato su questo. Volevo difendere il Parenzo e battagliare con lei, Crociani. Perché? Perché prima dicevate, lei diceva che quello che ha fatto il signor Adriano Picella, cantante di Berlusconi, è una cosa giusta. Non è una cosa grave. Non no, giusta, ma, io, ma ho detto, grave. Io ho detto un'altra cosa. Allora, Apicella oggi dalla Parodi ha detto se anche avessi visto Berlusconi toccare... le cosce di qualcuno non l'avrei detto al grave. Processo. Qual è il problema? Di che parliamo, ragazzi? Di che parliamo? Non di che parliamo? Che non è una cosa grave, che ma no, ma passare. Non è che uno è obbligato. Scusa, scusi un come attimo. No? Se tu vedi qualcuno che tocca le cosce a qualcun altro, sei obbligato a dirlo? Se sono sotto giuramento, sì. Ma non è vero, ma non è vero, no? Ma certo. Non è così. Non e invece è... lei deve dire che è così, perché è così. Ma non è così, scusa. Ma certo. Riascoltiamo Picella. Non è obbligato a dire la verità. Riascoltiamo, sì, ho capito, ma dipende che cosa ti chiedono. Cioè, riascoltiamo Picella. Era un paradosso utilizzato, peraltro dal signor Sloan, prima citato, sentiamo. Mettiamo ipoteticamente che tu avessi visto invece, mentre che tu suonavi, lui toccare... una donna, una ragazza che era forse minorenne, l'avresti detto in processo questa cosa? No, perché sono uno che quando va lì lavora, non va lì per fare la so è possibile. Quindi non l'avresti detto. No, ma scusate un attimo, allora se tu avessi visto Berlusconi mettere le mani addosso, cioè toccare una ragazza forse minore, ma che domanda è? Ma dai, ma di che parliamo? Dai, su, non parliamo di cose assurde. Se tu avessi visto Berlusconi toccare una ragazza e se tu avessi saputo se questa ragazza fosse minorenne non avresti detto niente, ma ho capito, sono paradossi comunque. Ma che paradossi? La domanda di Sloan era messa in modo da far dire ad Apicella, ma giustamente una bella domanda, per carità, da far dire ad Apicella no, perché io sono lì come un professionista, non mi interessano queste cose. Cazzata. Vabbè, d'accordo, ma Danilo, vediamoci. Ma va benissimo, non c'è problema, cioè non mi pare una cosa, straordinariamente grave. Per battagliare un po'. Ma no, ma per carità, Danilo, grazie, è con noi Vittorio Feltri, ciao Vittorio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Oh, finalmente. Che c'è, finalmente che? Perché no, che dico, c'è? Finalmente, bene, sono contento. Lo sai che Feltri è contento se Di Pietro va al Quirinale? Sì, io sono contentissimo. Sei contentissimo? Sì, certo. Cioè, secondo te può fare bene al Quirinale Di Pietro? Interessa se può far bene o male, io so che al Quirinale non è che abbiamo avuto dei campioni, ma spero con Di Pietro che ci sia maggior divertimento in modo che anche la Zanzara trovi ulteriori spunti per farmi divertire quando sono in macchina e li ascolto e la cosa naturalmente se può essere più elettrizzante di quanto già non sia sarei solo più contento. Cioè, vabbè, allora però con questo qua confermi che in realtà sarebbe una specie di Circo Barnum Di Pietro al Quirinale o no? Beh, ma perché adesso non è così più o meno. No, okay, però... può essere più divertente, dai, non puoi negare che con Di Pietro al Quirinale tutta la storia italiana sicuro. Contemporanea potrebbe riservarci dei momenti di grande divertimento. No, no, ma questo no, però ma tu ha ragione il direttore, al scusa. Di là del divertimento, tu la consideri anche, cioè tu in realtà tu, poche persone lo sanno, ma nonostante le cause, i tribunali che poi riguardavano soprattutto la proprietà, cioè il giornale, i giornali in cui è stato Feltri, in realtà Feltri stima moltissimo Di Pietro, è vero Vittorio? Sì, è verissimo. Tra l'altro lui non mi ha mai querelato personalmente, naturalmente querelando il giornale, dove ero direttore responsabile, come sai, per via della responsabilità oggettiva ci andavo sempre di mezzo e facevo delle figure pazzesche. In realtà il nostro rapporto personale è sempre stato buonissimo e non vedo perché si dovrebbe guastare solo perché lui va al Quirinale. Beh, cosa vuoi che ti dica? No, al Quirinale no, nel senso che in tutti questi anni Berlusconi non vi ha diviso. Certo. No, ma io con Berlusconi non è che ho un rapporto, diciamo così, quotidiano. Poi Berlusconi non si permetterebbe mai di interferire nei miei gusti. Cioè, tu stimi più Di Pietro di Berlusconi? Non ho capito. Tu stimi più Di Pietro di Berlusconi alla fine come uomo? Ma non ho mai fatto delle comparazioni e non le farò mai. Come io, uomo? Ma insomma, molto antipatico, stimo di più questo, poi bisognerebbe motivare i giudizi. Io per Berlusconi ho molta stima, sì, perché nel 94, come tutti ricordano, scese con quella espressione che a me non piace, scese in campo, sì, e quando non c'era più nessuno, praticamente l'ex PC era rimasto, sì, da solo al comando e invece l'intervento di Berlusconi, che in tre mesi mise in piedi un partito, sì, fu decisivo. E insomma, non si possono disconoscere i meriti di Berlusconi. Però se dovessi scegliere se andare... Negli anni poi abbiamo visto delle cose atroci, questo però è un atroci. Un uomo si giudica complessivamente, si giudica, ma se dovessi scegliere se passare una serata con Di Pietro o con Berlusconi, con chi la passeresti? Ma con Di Pietro. No, se c'è il bunga bunga preferisco andare da Berlusconi. Se non c'è il bunga bunga è chiaro, con Di Pietro mi diverto di più, parliamo tutti e due un linguaggio contadino, ci intendiamo al volo, insomma... Non dice le barzellette? No, ecco, poi fra l'altro c'è anche questo vantaggio, che con Di Pietro non ci sono barzellette. Vabbè, insomma, a cena è più divertente, uno si trova più a suo agio con Di Pietro. Ma non c'è il minimo dubbio, anche perché Di Pietro, cioè, non è una prima donna, sul piano conviviale è un personaggio divertente, simpatico, arguto, non vedo perché non dovrei avere simpatia per lui. No, l'ho sempre detto. No, certo. No, ma poi ha ragione Feltri, scusa. Tu dici? Una sorpresa quotidiana. Con Napolitano ci annoiamo. Beh, anche Berlusconi sarebbe una sorpresa quotidiana. Altro che. Con Napolitano assistiamo a, come si chiama, no? Quando vedono tutte le ragazze che passeggiano nei corridoi, sarebbero delle scene fantastiche anche con Berlusconi. Sì, anche con Berlusconi, su, dai. È che ormai la minestra è un po' rangida. Ormai sì. Ma Di Pietro è finito politicamente, secondo te? È un po' in difficoltà, come tutti sappiamo. Però adesso si è un po' ingigantita la figura, diciamo, della Gabanelli, sì, con report, eccetera. Sono tutte cose tirate fuori dagli archivi, montate bene in televisione, per amor di Dio, giù il cappello davanti alla Gabanelli. Niente di nuovo, cose già chiarite, già passate. L'hanno voluto fregare, secondo te? Ma non c'è dubbio, ma qui hanno fregato Berlusconi alla grande. Sì. Hanno fregato Fini, che poi si è fregato da solo, come abbiamo visto oggi. Mio figlio ha fatto un tweet che secondo me è meraviglioso, faccio propaganda alla famiglia, dice che Fini è il primo uomo che è riuscito ad andare al proprio funerale da vivo. L'ho trovata carina e la ripeto volentieri. Hanno voluto fregare Berlusconi, poi Fini. Berlusconi, Fini, adesso Di Pietro, poi ce ne sono altri. Che... E siamo qui, non me moleste Moschito, 800240024, La Zanzara, in collegamento dal Granducato di Siena. David Parenzo è con noi, Vittorio Feltri. direttore del giornale, che stava dicendo, insomma, Di Pietro l'hanno un po' incastrato, cioè quando è diventato un po' più debole si sono scatenati contro di lui anche i suoi, vedo, lo abbandonano alcuni dei suoi, naturalmente, no? Ma sì, anche questo è abbastanza normale, sono film già visti. Quando un leader comincia ad avere qualche problema, tutti quelli che no, qualche giorno prima si inchinavano davanti a lui non aspettano altro che godere del fragore provocato dalla caduta del leader stesso dal piedistallo. Insomma, questa è la storia dell'umanità. Ma tu l'hai votato qualche volta, Di Pietro? Sì. Di Pietro? No, non ho mai votato, perché io ho sempre votato per il centrodestra, non per motivi ideali, ma semplicemente perché il centrodestra mi ha sempre fatto meno schifo del centrosinistra. Tutto lì. E poi adesso sarei anche in difficoltà ad andare a votare. Per fortuna che c'è Grillo, che sta sfasciando tutto. Bene. E questo mi provoca degli orgasmi. Piccoli, per l'amor di Dio. Beh, ma... piccoli, insomma, a me sì, lo... Orgasmini. Vabbè, gli orgasmi veri sono un'altra cosa, diciamo. Però tu provi un certo godimento nel vedere Grillo che sfascia tutto, diciamo la verità. Ma sì, perché l'assetto italiano, tutto il sistema è talmente marcio che è inutile fare degli interventi per tentare di medicare, mettere un cerotto qui, un cerotto là, bisogna sfasciare tutto e dal grande caos si spera di ricavare un nuovo ordine. Sono d'accordo, verità. No, no, ma anch'io poi, in questo momento sono tentato dal votare Grillo. Tu lo voteresti, no. Grillo, Vittorio? Ah, io assolutamente sì, perché voglio vedere cosa succede, come va a finire. Sì, sì, ma guarda, Parenzo, anch'io. No, a me fa sui coglioni in modo terribile. Quindi ma cosa? Io non capisco. Questa qua, Salsi, ancora questa Pirini, Salsi, queste qua del Movimento 5 Stelle che rompono le scale. Ma chi sono? Chi sono? Ma chi sono? Ma chi sono? Senza Grillo non esisterebbero e alzano il ditino. Quello ha preso il 15-18 per... benissimo a prendere a calci nel sedere quel Ron Hubbard, presidente di Scientology. Ma che Ron Hubbard? Ma finisci la mano. Ma scusa un attimo, ma non sarebbero nulla e nessuno senza Grillo, ma chi la conosce questa Salsi? Di essere qualcuno indipendentemente da quel simpatico arruffo, ma quando mai? Che si è allenato un'estate per attraversare il canale. Ma perché Parenzo è così proprio politicamente corretto? No, ma mi diverte moltissimo, è molto simpatico. Un po' di sinistra dentro e fatica ad abbandonare questi luoghi comuni, questi stereotipi politicamente corretti, ma chi se ne frega? Senza Grillo non ci sarebbe il Movimento 5 Stelle, non ci sarebbero queste ragazze che avrebbero fatto meglio a iscriversi al Rotary piuttosto che... Sì, oppure a qualche altra associazione. Dai, su, ma di che stiamo parlando? Ora loro hanno la possibilità di dimostrare di essere delle persone indipendenti da... Ma quali indipendenti da cosa? Loro non sarebbero lì se non ci fosse un pazzo che va a nuotare nello stretto di Sicilia. E allora... Affrancarsi dal leader... Scusa, Giuseppe. Dimmi. Magari nessuno di noi... crede al nuovo che avanza, ma al nuoto che avanza dobbiamo credere tutti, perché lo abbiamo visto. Ah sì, no. Il nuoto, ma sì, ma insomma, diciamo, ragazzi, diciamo la verità. Guarda, è stata un'impresa meravigliosa. Io la mia stima per Grillo è aumentata moltissimo proprio per la nuotata. Ma Berlusconi lo sa che tu vuoi votare per Grillo? Sì, tanto che ma, te frega ma, a te. Penso che a Berlusconi non gliene freghi niente per chi voti. E Sallusti lo sa almeno? Ma Sallusti è un altro a cui non gliene frega niente, ma guarda, mai dico mi io. Sentirei in imbarazzo nei confronti di chi? Io faccio come mi pare. No, ma certo. No, ma ti dico io. Ma scusa, ma Sallusti oggi ha detto... Sallusti voterà per la Santanchè, ti dico io come funziona. Sallusti voterà ovviamente, ed è anche giusto, per la Santanchè. E anche Berlusconi voterà per Grillo, perché si è rotto i coglioni di sto partito che non resiste più questo. Berlusconi secondo me piace moltissimo Grillo. Voterà Berlusconi. Per Grillo. Se potete, no, Berlusconi secondo me ha un'ammirazione sconfinata per Grillo. Un'ammirazione sconfinata. Giusto, Vittorio? Io condivido. Grillo, ma chi l'avrebbe detto solo 3 anni fa che sarebbe riuscito? È un genio, dai, è un genio. Di questo casino, ma io lo ammiro moltissimo, perché chi riesce a fare un piccolo casino mi infastidisce, ma chi fa un grande casino come Grillo mi affascina, quindi sto a vedere quello che riuscirà a fare. Scusa. Quanto riuscirà a sfasciare, sarà una meraviglia. Scusa, il direttore del giornale dove lavori, Sallusti, oggi ha detto se vado in galera non sarà un problema, ma l'hai preso per il bavero o no? Ma guarda, io è da più di un mese che sto predicando ovviamente in vano, come sempre mi succede, che non è proprio il caso di diciamo abbandonarsi a gesti di eroismo, anche di generosità, se vuoi, da parte. Ma gliel'hai detto a lui? Certo che gliel'ho detto in tutte le maniere. Intanto io avrei subito pagato il giudice di Torino, il quale diceva: vabbè, datemi 20.000 euro che io li giro in beneficenza, ritiro la querela e non. Sì, non so. Sì. Certo, io li avrei immediatamente dati. E lui invece ha voluto fare l'eroe, andare fino in fondo, sperando forse che il Parlamento riuscisse, sì, a varare una nuova legge della quale ci saremmo giovati tutti noi, sì, giornalisti. Sì. Poi purtroppo forse è stato un eccesso di fiducia. Io non avevo il retropensiero, e cioè che il Parlamento non avrebbe combinato niente, perché non ha mai combinato niente, sì, negli ultimi anni, perché proprio per salute. Però questo, però Sallusti sta anche esagerando con questa cosa qui, o no? Cioè, tutti i tentativi, anche tu so che hai fatto dei tentativi comunque per convincere qualche politico. Sì, assolutamente. Sì. Lui è un testone così, c'è poco da fare. Ma perché vuole fare la vittima, vuole fare un atto di, cioè... Sì, ma guarda, questi sono discorsi che sento fare da tanta gente, vuole fare la vittima, no, non è vero. Vuole andare in galera, eccetera. Ma chi, come d'altra parte Sallusti, ha dato un'occhiata alla galera, perché recentemente è andato a Padova, sì, sì. E quindi si rende conto che un conto è parlarne in salotto, un conto è andarci davvero in galera. È una cosa orrenda. E anche sulle galere bisognerebbe fare dei discorsi, ma tu li hai già fatti, mi ricordo. Ma perché invece, perché vuole andare, adesso dice non sarà un problema andare qualche giorno in galera? Ma secondo me sbaglia, perché spera poi che succeda qualcosa per cui all'improvviso invece il se ne fotteranno, si spicci, faccia una legge che farebbe comodo a tutti noi, perché noi siamo rimasti veramente al Medioevo in Italia con questa legge. La gente dice: ma chi diffama è giusto che vada in galera, ma è giustissimo che chi diffama paghi, ma perché con la galera? Ma certo. È sbagliare mentre si lavora senza dolo, senza malafede, non è mica un delitto da punirsi con la galera, ma insomma in nessun paese, sì, a bonus, sì. Spiegaglielo, ha ragione il direttore. Ne abbiamo già parlato una volta con Vittorio Feltri, non voglio riaprire la questione del carcere, non carcere, diventa lungo. La cosa che mi interessa è una sola, che c'è una sorta di endorsement per Beppe Grillo da parte di Vittorio Feltri. Questo è sorprendente, anch'io voterei in questo momento, così la mia sensazione è quella, per sfasciare tutto, vote for Grillo, questa è la realtà. Certo, nella speranza che dal casino generale possa uscire poi anche la volontà per ricostruire qualcosa di normale, di più. Può governare Grillo, secondo te? Ma io non lo so, perché non l'ho mai visto governare. Cioè, meglio di quello che hanno fatto questi, però magari ma sì. Ma meglio di questi, chiunque. Chiunque. Anche uno. Perché io non ho capito bene quali siano i programmi. Vabbè, ma tanto quello. Non mi interessa. Ma sì, ma tanto i programmi, sai, i programmi. Sì, appunto. Tanto nessun programma si può realizzare. Ma si tratta di distruggere tutta questa impalcatura che ci sta veramente paralizzando il paese. Vabbè, ma tanto lo sappiamo già. Ciao Vittorio, buona serata. Ciao, ciao, a presto. 20:43, 800 24 00 24. Fabio da Milano, buonasera. Buonasera, sono completamente contrario all'affermazione fatta da Parenzo in merito alla Repubblica Sociale Italiana e al confronto che ha fatto tra Rauti e la Repubblica Sociale e quel noto... No, la vergogna di paragone che ha fatto, la vergogna di paragone che ha fatto è tra Pino Rauti e Pribke, questa è la vergogna di paragone che ha fatto. Una vergogna storica. No, hai fatto un paragone, hai fatto... Ho detto, non giocare con me a fare... No, senti, però perché fai così con i politici e poi per quello che ti riguarda ti tiri indietro? Hai detto una cosa che ti ripeto. No, non cioè, hai detto. Vabbè. Rauti e Pribke combattevano dalla stessa parte. Ma perché hai fatto? Ma non è la stessa cosa. Buono, ma quello. Vabbè. Stai buono e non eccitarti. No, ma no, ma sì, fascistello a me. Fascistello, stai tranquillo. Fascistello a me, guarda, non fare. Stai tranquillo. Dico che Rauti si è arruolato come fascistello, lo dice a qualcun altro, nella Repubblica Sociale Italiana e combatteva dalla stessa parte del signor Pribke. Ma non è vero, Pribke era capo, uno dei capi dei nazisti in Italia, ma che dici? Cioè, ma combatteva con lo... Ma sì, ho capito, ma non c'entra niente. Quello è stato condannato per come sai, per reati gravissimi, signor Pribke, dai, su. Tedeschi. Comunque, ti sto dicendo. Certifico che tu hai detto che hai fatto un paragone tra Pribke e Rauti. Sì, ho sì. Ho detto che così come. Così va bene, come, fai parlare Fabio da Milano, non è inutile che specifichi. Non c'è una sola lacrima. No, vabbè, non così, non ti dispiace perché è morto Rauti e hai fatto un paragone ma con Pribke. Non mi dispiace. Fabio, no, hai detto così, è inutile che fai adesso, vuoi specificare. Fabio. Questo ci sta, non si dispiace, ci sta, non è un amico, ci sta, ma il problema non è questo, al di là della la cultura bassa nella fare determinate affermazioni, il problema è che queste affermazioni alimentano estremismi di destra e di sinistra, perché sono Stefano da Bergamo, buonasera Stefano. Sì, buonasera, anche io volevo dire che il paragone che ha fatto Parenzo questa sera è veramente fuori luogo. Ma sì, dai, la inviterei a chiamare una bella ambulanza per il... Ma non lo faccio, ma lo farò Parenzo. lo farò dopo, non si preoccupi, perché lo farò dopo. Se la meritava. La seconda cosa che volevo dire era che anche paragonare quelli di destra dei cannati, mi scusi, ma il dottor Parenzo è veramente fuori luogo. Perché quando perché ha detto... Vada in qualche centro sociale... Ma cosa hai detto, Davide? Cosa hai detto? C'era un radioascoltatore, non ho mai detto dei cannati, c'era un radioascoltatore prima che a mio modo di vedere, come dicono, sì, io alle volte deliro, sì, avrò il diritto, e loro hanno il diritto di farlo, figuriamoci, una trasmissione orizzontale, questo non... Vabbè, allora lascia perdere queste definizioni orizzontale e verticale che non le capisce nessuno, dai. Io ho detto che il signore che ha chiamato prima ha bevuto troppo, fa uso di alcolici, ma non mi pare una roba offensiva. Ma che c'entrano le canne allora, Stefano? No, si vada a sentire cosa ha detto il signor Parenzo. Ha detto i cannati che frequentavano la chiesa, dando praticamente dei cannati a tutte le persone di destra. Io sono di centro e la camerati, stia calmo. No. Stia calmo, Stefano. Di ma che c'entrano cannati? Ma cannati non è una parola, non è una parola che Parenzo userebbe. Questo lo so benissimo anch'io. Siamo qui, Francesco da Palermo, buonasera Francesco. Comunque non capisco lo scandalo, guarda. Francesco da Palermo, ma non c'è scandalo, è paragonato Prib Carrauti. Francesco da Palermo, buonasera. Pronto? Dimmi pronto? Te. Dica Francesco. Pronto? Buonasera, volevo parlare delle primarie del PD, però apro un inciso. Siccome il signor Parenzo dice combattevano dalla stessa parte, gli vorrei ricordare che c'è un film, La Sciociara, che parla degli stupri che gli americani fecero in Italia durante la guerra di liberazione che fecero in Italia, quindi le parti non sono sufficienti per accomunare le persone. Bravo. Poi? No. Volevo dire un'altra cosa su quanto riguarda le primarie, sì. Io sono palermitano, sì. A Palermo hanno votato in 30.000, sì, alle primarie del PD, sì. Il signor Di Pietro, sì, assieme a Selle e, sì, a Bersani, appoggiavano a Borsellino, sì, ha vinto Ferrandelli. Vabbè, allora? Giusta cosa doveva essere appoggiare Ferrandelli. Vabbè, lì Orlando si è ribellato e si è candidato da solo, la storia allora, la sappiamo. E allora queste primarie per alcuni le primarie valgono quando vincono loro, questo è il punto. Appunto, il problema è questo, dico, noi ci troveremo nuovamente che se dovesse vincere... Però scusi un attimo Francesco, adesso prego. Delle primarie di quello che è accaduto a Palermo oggettivamente non si ricorda più nessuno, Ferrandelli è scomparso, sì, nel nulla. Storia, però fa storia, sì, della, per carità, va bene. Storia del PD, abbandonare i vincenti se non sono i vincenti. No, però scusi, in quel caso è diverso perché PD fino alla fine più o meno appoggiò Ferrandelli se non sbaglio, cioè, intanto Ferrandelli perse e vinse e ha vinto, abbiamo Orlando a Palermo con i problemi. Orlando poi si è candidato da solo, se n'è fregato del Partito Democratico e si è candidato da solo. E quindi cosa vuol dire che poi che Orlando se n'è fregato, Orlando se n'è fregato di quel risultato, lo so, delle primarie, so, infatti, perché pensava di poter vincere da solo a un certo punto e perché gli stava sulle scatole Ferrandelli. Io sono palermitano, lo so bene com'è andata. Francesco, dico, fermo un attimo, fermo lì. Abbiamo con noi Antonio Razzi, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Come va Razzi? Un altro benissimo, buono. Benissimo, diciamo. Senta un attimo, ma... Un altro di buono. No, che c'è? Che è successo? Parenzo, ti scaldi subito, che è successo? No, dico un altro buono. Abbiamo pochi minuti perché la trasmissione è andata in questo modo. Razzi, ma lei gode un po' di queste sfortune di Di Pietro? Mi dica la verità. No, io di solito un po', sì, su. Non, però? Non voglio il male di nessuno, almeno nella mia... Io sono un cattolico convinto e voglio il bene di tutti. Il bene di tutti. Ho capito, però un po' se l'è voluta Di Pietro, o no? Se l'è cercata. Ma vedi, io dico sempre che il Signore in cielo vede e provvede. Cioè? Nel senso, chi mi ha infancato, chi mi ha parlato male, chi mi ha definito chissà che ladro, sì, ecco, e alla fine si capovolge la situazione. Come si dice? Chi sputa, com'era la cosa? Non mi ricordo l'espressione. Diciamo che non bisogna mai sputare nel piatto. No, chi sputa in aria poi torna. Sì, chi sputa in aria che ti può ricadere addosso dopo. Ah, questo è successo, dice Di Pietro. Cioè, chi fa del male poi adesso, chi getta fango? Ma, vedi... Riceve fango. Riceve quelli che riceve. Ti aiuto io, Larry, guarda. Come? Ti aiuto io. Beh, mi dica. Ti aiuto. Chi getta fango... riceve fango, è molto semplice, onorevole Razzi. Scusi, onorevole Razzi, ma cioè, nel senso Di Pietro ha gettato fango? Io lo so e l'ho capito la battuta, ed è chiaro. Io a suo tempo ne parlavo, però, come si dice, da un orecchio entra, all'altro esce. Scusi un attimo, ma dal suo punto di vista che rapporto ha Di Pietro con i soldi del finanziamento pubblico? Ma guarda, io non ho mai avuto niente, anche io sono stato due volte candidato, io ho sempre pagato di tasca mia. Non le hanno mai dato una lira, un euro di finanziamento pubblico dell'Italia dei Valori? No, mai. Mai? Ma lei ha chiesto dei soldi? Le ha chiesto dei soldi qualche volta? No, io nemmeno l'ho chiesto, perché io ho solo detto che poteva darla agli altri candidati che si sono candidati all'estero, perché sono anche gente... E non, lui non ha mai dato? Non ha mai dato? No, non ho mai dato niente a nessuno. No, io dico, io non lo voglio, perché per fortuna sono rientrato parlamentare. Dice, ma almeno datelo a quegli altri che hanno bisogno, anche perché sono lavoratori, lavorano. Sì. Allevargli, diciamo, un esempio, allevargli 1.000 euro dalla tasca di loro è anche un... Ma lei dice gli altri candidati dell'Italia dei Valori all'estero? Sì, io parlo di quelli che sono, che erano 12 candidati, insomma, diciamo 12 con me, 11 più 4. Lei ha chiesto dei soldi e non sono mai arrivati questi soldi? No, non sono mai arrivati. Almeno, senta, ma Barbato, con quella telecamerina, non è che voleva metterla in cattiva, non è che l'ha mandato il signor Di Pietro, no? Questo, sai, sono tutte supposizioni che uno può pensare, perché io mi sono meravigliato che alla prima trasmissione degli Intoccabili, sì, era presente Di Pietro. Dico, è sempre fatta apposta. Dice, guarda, ma quella è la trasmissione, la prima, proprio c'è la mia cosa che io ho detto, perché è chiaro che quelle parolacce normali io non lo dico mai, però a un amico, come quando uno si parla al bar, si parla al bar. Lei dice l'ha mandato Di Pietro. Non lo so, però l'ha pensato. Ma tutto si può pensare, sai, io non lo so, però ti fa... Scusi, ma lei vuole rientrare in Parlamento dopo il 2013 o no? Intanto lo incassiamo sto vitalizio, lo incassiamo, quello è sicuro. Ma quello, guarda, io ripeto... Vabbè, però adesso fa comodo, dai. Io, non essendo un laureato, come ho sempre sostenuto, me ne vando perché... Non essendo laureato? Vengo dal mondo operaio e vengo da 40 anni di lavoro in Svizzera. Dunque? E sono nei top 200 del Parlamento. In che senso nei top 200? Nei primi 200 che lavorano di più in Parlamento. Ah, ho capito. Allora se mi vogliono, io sono libero, pronto per... Ma con chi? Con quali liste? Ma sempre... Con Berlusconi. Ma, con le Amazzoni? No, vabbè, Razzi, ne parliamo domani. Oggi abbiamo chiuso il tempo. Ne parliamo domani con tranquillità. A domani. Il punto G è una cosa bellissima, che tu goda, mi piace. L'orgasmo è lecito. Scopate, fate quello che volete. Andiamo a vederlo. Viva il punto G. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Si è lodato Gesù Cristo, sempre. Radio 24. La passione si sente. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. Preventivi gratuiti su axerta.it. Vi ha presentato La Zanzara.